Yo, ciao a tutti. Come va? Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Piacere, veramente. Rossa, davvero, tutto mio il piacere di essere qui. È la prima volta per me sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Davvero? Sì, sì, sì, assolutamente. Però io sono comunque anche un ascoltatore, quindi è proprio bello davvero essere qua tra i vostri ospiti. Un onore. Ci abbiamo la Ciunno lì pronta. Sì, ce l'abbiamo pronta. Perfetto. Salutiamo anche FM Rudical che lo accompagna. No, abbiamo salutato già prima, gli facciamo fare un saluto anche a lui. Presente, come va? Big up a tutti. Piacere. Ascoltatori di Radio Onda Rossa, è un piacere essere qua. Grazie di essere venuti. Io comincerei a parlare perché parlavamo con Paolo, o io gli chiedevo la data specifica, il periodo, quando è uscito il tuo ultimo disco, primo, lavorato così, da solista, con tante collaborazioni. È stato a maggio, mi diceva Paolo. Sì. Sbagliava? Sì. No, non sbagliava. No, quindi sono passati alcuni mesi. No, sì, da questa prima sì. esperienza, com'è stato questo periodo che ora lo vedi, penso, con un'altra prospettiva? Ma vogliamo fare una cosa, Maria, sentiamoci prima questo pezzo selezionato, così rompiamo il ghiaccio, che tra l'altro è proprio la traccia che determina il titolo. Davvero? Sì, determina il titolo dell'album Up Like Seven, quindi ce la sentiamo e poi magari ci andiamo a fare sta chiacchiera qui in diretta con... Come apre questo disco e dopo giustamente l'artista ci racconta. Dai. For the DJ, listen rubber the beat, yeah. Why sound for the people them can't stand on the feet, yeah. Hey, as on yourself, tell him to my people, so me as on ya who, tell him to my people, so me who, as on yourself. Colder than Alaska, frozen in the ice, hotter than sand in Miami Vice. If you like the vibe, just pull up the vibes. Pizza mandolino, please give me a slice. Bubble up your body with the Bondi ride. Listen, this your music from the other side. Yeah, sometimes I wish we could fly away. And I love it, pain just die away. Now I fantasize. Oh, so sweet, yeah, she's my melody. One of a kind, she's my summer beat. Lord, I'm sure you never leave me alone. Feeling like a king of your empty throne. Tell him to my people, so me I say, pizza mandolino, please give me a slice. Bubble up your body with a funny ride. Listen, this is your music from the other side. Yeah, sometimes I wish we could fly away. And I love it, pin just die away. Yeah. Oh, Ranking Delgado sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Diego, raccontaci qualcosa, perché questo apre il disco. Prima sì. traccia. Sì, sì, sì, siamo su Up Like 7. Intanto vi metto il dub in sottofondo. Sì, ah, dai. Va bene. Sì, allora si tratta di un album che abbiamo insomma avuto l'opportunità di concludere nel questo periodo di del lockdown. Ho cominciato a scrivere gli ultimi brani quando ero chiuso in casa da solo nel marzo del 2020. Da marzo del 2020 io ero a Milano proprio quando è iniziato tutto. Aia. nel centro dal primo giorno l'ho presa in faccia subito e visto che l'ho proprio fatto davvero il lockdown tutto da solo, tutto in casa, tutto bello violento proprio come in carcere, e da lì abbiamo insomma finalizzato una serie di robe che avevo scritto, stavo scrivendo, ho scritto nuove, e ovviamente le relazioni che abbiamo tessuto tramite i social network, di poterci scrivere, rimanere molto connessi, questo l'abbiamo fatto un po' tutti quanti, mi ha dato l'opportunità di che la gente mi ha scritto e mi ha contattato per fare nuovi lavori, mi hanno scritto i producer, diversi cose che volevano, magari in arretrato già avevano pensato che volevano fare una cosa con me, è stata l'occasione giusta per farla, e l'abbiamo realizzato così. Quindi io alla fine, quando hanno aperto poi le regioni, il giorno, se vi ricorderete tutti quanti, 3 di giugno, per me è una data indimenticabile, del 2020, hanno aperto le regioni che erano state chiuse, quindi ci si ripoteva muovere, no? Ritogliere dal proprio luogo, che io tra l'altro ero in quella pianura padana là, sa soffrire bellissimo, come un cane. No, sì, bellissimo. Posso, me l'ha raccontato, non sono mai stato, me l'ha sempre raccontato. Bravo, allora, meglio fartelo raccontare questa, è una di quelle che più vuole farsene raccontare che non dire. No, insomma, comunque a stare chiusi in casa, però, stare chiusi in casa possono venire fuori delle anche i lati, sì. E abbiamo tirato fuori il positivo, perché prima di andare al percorso che ti ha portato, perché è stato un percorso veramente, certo, attraverso l'Italia a fare il disco, quindi per te è stato positivo, tra virgolette, produttivo, cioè sei stato uno di quelli che è riuscito a tirare fuori. Ho reagito a una cosa che mi stava tenendo troppo costretto, mi aveva chiuso molto, e in quel modo sono riuscito grazie alla musica propriamente a reagire a quella condizione di prigionia forzata che abbiamo vissuto tutti quanti. Certo, si aprono le regioni, dicevi 3 giugno si aprono le regioni, io insomma guardo il meteo e scopro che i successivi giorni avrebbe fatto una settimana di pioggia, e quindi non più che potevo concepire di stare ancora in casa un'altra settimana. Ho chiuso la valigia in mezz'ora, ho preso la motocicletta e sono partito, e sono andato in moto a Perugia in tempo reale a trovare per primo tutta una serie di amici, a partire da Mr. Joint Selecta, dalla crew di Marche Dub Family, con insomma diverse realtà con cui stavo collaborando e sentendomi durante il lockdown, e da lì abbiamo concettualizzato questo giro che poi ho di fatto realizzato chilometro per chilometro in sella alla mia moto, e sono andato. Quanti ne hai fatti di chilometri? Sono stati 6.700. Oh, vero? No, sono stati parecchi, sì, perché poi sono stati in giro di fatto, poi sono tornato il 25 di agosto, mi sono fatto 80 e rotti giorni di bene, di credo strada. Che avresti fatto l'Argentina da nord a sud, mi pare davvero, mi pare che avresti fatto tutto da nord a sud praticamente. L'Italia in quel mondo credo di averla fatta 2 volte, infatti, sì, almeno, forse, appunto, forse 3 volte. E come è stato? Com'è stato il lavoro e l'accoglienza dei colleghi? Perché è stata una cosa molto collaborativa. Sì, ci sono 8 producer distribuiti su tutto lo stivale che hanno collaborato, hanno voluto mettere la loro musicalità e le loro mani ingegnose con i loro laptop, oppure le loro competenze strettamente musicali con gli strumenti, taluni hanno suonato proprio, e quindi insomma abbiamo fatto in modo che ognuno esprimesse la sua parte creativa con i loro beat in maniera totalmente libera e scevra da scelte discografiche o di gusto, di forzature di genere, perché io ho voluto mettere in questo, che è il mio primo effettivo album, nonostante avessi fatto degli EP prima e dei singoli, ma questo è diventato l'album vero e proprio, che infatti contiene la versione digitale 18 brani, appunto, che fosse un po' versatile, trasversale, andasse a toccare i vari le varie zone della musica reggae che io ho toccato fin da quando sono ragazzo, quando c'avevo la band Rocksteady a 18 anni ai tempi del liceo, fino ad oggi, non coi tempi, quando siamo arrivati ai tempi dell'Inghilterra, dove, quando ho vissuto in Inghilterra, e che mi è entrata la vibe dei Sound System Culture, UK Dubs, e insomma tutta l'evoluzione che poi mi ha portato a fare diciamo il Rankin Delgado, che oggi è diciamo conosciuto per la versione dei Sound System e di cantare sulle version. Che poi vorrei fare un commento proprio su questa cosa della versatilità, non solo della voce, ma anche dei vari brani presenti all'interno dell'album, che non è sempre facile dare, diciamo, comunque alla fine un'idea di un prodotto unico, no? Di una cosa che lega una canzone all'altra, e quindi nell'ascoltare l'album tutti e tutte e tutto possono sicuramente rendersi conto di come insomma ci sia veramente un link tra i vari sottogeneri della musica che tanto amiamo, la roots, reggae, dub, Wise, Ragamuffin e quant'altro. E quindi sì, devo dire la verità, un bel musical excursion. Sì, io volevo fare un'altra domanda, ma comunque ci arrivavo a questo punto che ha segnalato bene Paolo. Non sono ormai i tempi dei dischi, dell'album, esatto, come concetto, no? E ti sei permesso di fare uno, come dicevi tu, sì. Lavori, ne avevo altri, EP di qua, di là, però un album, e non solo un album per la quantità. No. Per la qualità, per il concetto, come pensato. Assolutamente, io avevo la necessità di creare un contenitore che fosse, facesse da trade union di tutta la mia arte musicale, dei miei brani, perché finora non era mai esistito, però avevo confezionato e il materiale sufficiente per poterlo fare, e anche maturato le connessioni e diciamo le realtà musicali con cui ho sviluppato questi contenuti qui. E quindi Paolo ha toccato nel suo intervento precedente il punto assolutamente azzeccato della cosa, cioè era difficile tirare fuori un prodotto che avesse un'unicità di suono quando veniva da 8 produttori musicali completamente di mani e background culturali musicali totalmente diversi ed esperienze diverse. Siamo riusciti però con la grande scommessa e l'ambizione nella speranza, cioè almeno io spero di essere riuscito, non lo so, non ce lo dirai in tempo. Sì, secondo me sì, non lo so, gli altri e le altre. Certo, di creare un lavoro che avesse appunto dei punti di continuità, nonostante le paternità creative delle menti che ci hanno lavorato avessero provenienze totalmente diverse, e quindi forse era una scommessa, certo. Ma però, infatti, in una di queste tappe, a proposito del prossimo pezzo che andremo a sentire, sì, la sonorità è totalmente differente, perché stiamo parlando di double spliff, no? Chiaro. Quindi sound delle Marche, a breve sentiremo quindi, sì, anche un infatti, featuring, perché nel disco sono presenti, a parte questo featuring che ci andremo a sentire, non so se ci sono altri featuring, sì, sì, nell'album, poi magari ce li dirai, certo, però certo. Prima di andare a ascoltare quella, sì, perché lui ha di nuovo tirato fuori la questione degli 8 producer, no? Io sei in grado, no, di fare l'elenco degli 8? Sì, vorrei fare una. Sì, dobbiamo. È dovuto per cronaca e anche per salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando. E ti propongo questo. Fammi anche. Dammi 2 o 3, come le definiresti in poche parole ognuno di loro? Ok. Per me, perché sicuramente non li conosco a tutti, e anche perché ci ascolta. Certo, e comunque, certo, giustamente non li conosce. Quindi, te, con il rapporto che hai avuto con loro, come le definiresti ognuno di loro? Okay, in okay, poche parole. Ci provo. Cominciamo con l'elenco. Innanzitutto la canzone che abbiamo sentito per prima, che è Up Like Seven, che è anche la tracklist, diciamo la canzone che dà il titolo all'album, All'album propriamente, che infatti si chiama Up Like Seven, è prodotta da Wise Sound, che è un producer, Samuele Ravenna, con cui io ho fatto già altri lavori. Salutiamo Samuele, grandissimo. Con altri lavori tra cui la trilogy dei dischetti di Clouds, Working Town e CD Sun con The Nylox, e sostanzialmente è un produttore a pieno tiro. Samuele alla trasversalità di essere di conoscere molto bene questo sistema, e lui è anche l'organizzatore del festival Manuel Dub che fanno in Sicilia, sì. E quindi ha un approccio a tutto il genere dub e reggae in generale, bello conscious, bene, oserei dire, e quindi lo definirei conscious. Bene, d'altro? Andando avanti one. Abbiamo il brano con appunto appena citato Double Spliff Sound System dalle Marche, che è in featuring con Mannaro, che insomma un big up a Double Spliff e Mannaroman, assolutamente, totalmente pure fire, un'energia pura. Qui definirei come sound e come tocco il touch di Luca Paniconi, che è il producer di Double Spliff. Energia, pure energy, stiamo parlando di cose stepper, forti, loro hanno il sound system con 6 scoop, sentiamo, cioè sono cose davvero molto molto con un gusto energetico forte, e lo stepper, quello che ti sfonda il chest. Dai, avanti. Conscious avanti. Ed energia. Conscious energia. Andiamo avanti con e questa era Food Fini Brain con Mannaro Man e Double Spliff. Poi andiamo avanti con Dobbin International, che invece è un brano che ho fatto, anche questo è un featuring, e qui c'è Forlock, che molto probabilmente tanti di voi conosceranno, è forse è uno dei cantanti presenti in questo lavoro, che si è prestato a questa collaborazione insomma più di rilievo, e lui il produttore invece che ci ha fatto da trade union su questa cosa è Raina con Boot Loop, che è la sua versione dub del suo approccio da produttore di Raina, e quindi insomma qui con Raina, ragazzi, cioè, io non so, cioè, non forse so perché tutti ridiamo, ma perché lo sappiamo tutti, cioè, ha talmente uno storico forte che qui non me la sento di definire io Raina, cioè, lo sanno già tutti com'è Raina, sì, bene, bene, dai. Salutiamo, lasciamo passare così. Big up yourself. Dai. Arriviamo alla metà, al quarto, no? Sì, siamo su No Trouble, che è un altro pezzo elaborato ed è step, anche questo è stepper style. E qui c'è è il secondo brano che è fatto da White Sound, quindi anche qui White Sound dalla sua la componente. Poi abbiamo Sirens, che è un brano prodotto da Legato Rob, auta Bass Pirates di Salerno. È una crew assolutamente ultrapotente. Loro fanno il crazy dub nella zona loro. Hanno un'etichetta molto forte, insomma producono questo tipo di musica, Bass Pirates si chiama l'etichetta, anche qui lascia già immaginare, no? E qui infatti te lo definirei come bassoni. Bene, sì. Vi salutiamo gli amici, le amiche, i fratelli e le sorelle di Bass Pirates, assolutamente, Violante e Rob, big up to myself, esatto. Every time successivi. Andiamo con Red Sky è un brano di natura speciale, oserei dire, perché ha dentro la Vincenzo Marino, che è un saxofonista con cui ho insomma partecipato in tutti i fiati di Clouds, del mio brano Clouds sono i suoi, chi la conosce quindi ha subito capito. È un grande saxofonista, e My Friend è il produttore, che è un produttore di Milano, è la prima volta con cui faccio una cosa con loro, e mi sono trovato molto bene, perché Gabriele Spinelli è una mente assolutamente eclettica, aka My Friend, e è stato meritevole questo brano del prossimo videoclip che dovrà uscire, proprio questo. Adesso ne parliamo pure, sì, di quello. Di un video che abbiamo fatto, ed è un'opera carina su questa cosa. Qui direi versatile, ecletticità. Bene, certo. Perché viene dall'elettronica, lui viene, insomma, ha fatto un altro giro, e quindi ha queste sonorità si trova l'elettronica, soprattutto nella version, che è un viaggio, diciamo, Dub Sky, quella che sta nel lato B, insomma, le version del disco è davvero. Ci mancano uno o due? No, ce ne mancano ben tre. Ah, perché ben tre. Sono nove in tutto. Siamo a Like That è prodotta da Silo, grandissimo Silo. Star Bene Crew, grande cantante, prodotto da Macro Marco e Gesa Music. Ora lui ha appena fatto un disco in italiano, e con me qui si è prestato, grazie alla nostra forte connessione di spirito, che ci siamo trovati musicalmente subito in forte connection, soprattutto sulle parti di lo-fi, in vapor dub style, quando andiamo molto piano a BPM bassi e si va lenti, slow, you know. In quel caso io e lui abbiamo provato delle fortissime connessioni di mood ed è venuto fuori questo brano che si chiama È uscito fuori un bel fatto, che insomma, ci piace. Ha quello spirito vaporoso, liquido, e esiste anche di questo un recente un videoclip video, esatto. Appena un lyrics video nello specifico, con le parole, ecco, per aiutare ogni tanto con i testi. Bello, sì. Quindi ne mancano questo. Due. Passiamo al penultimo. Siamo al penultimo, che è One Off, che invece è prodotto sempre da un altro produttore romano che si chiama Freddy Stork Production. Salutiamo Freddy Stork, certo. Produttore e uomo che contribuisce a questa musica in maniera anche lui direi potente, perché la sua aggettivo è potente. Spinge come un ossesso perché lui è proprio c'ha una maestria nel produrre beat e una dinamica nel generare contenuti specificatamente steppa, che suonano con una sua marca molto tirata e molto forte, che è Freddy Stork Production. Questo brano però, viceversa rispetto alla sua marca tipica, ha voluto andare molto piano ed è il brano con BPM più bassi del disco, a 53 BPM. Guarda. Si chiama One Off, è un brano di spirito, cioè non voglio dire d'amore, perché non è giusto, perché non è corretto, però è un one off, è una cosa de sentimento, ecco, de emotion, de gore, come dicono qua, no? De gore. Paolo. Passiamo all'ultimo prima di ascoltare la seconda. Siamo all'ultimo, certo, che è invece We One Blame, che è un brano fuori dal coro rispetto al disco. Anche questo suona tutto diverso da tutti gli altri. È il brano più reggae, se vogliamo, del brano. Infatti è prodotto da Magista, grande produttore di Perugia, che ha dato idee, insomma, i nativi a produzioni storiche di diversi grandi realtà italiane, insomma, da Easy Skankers, Lion D, ne ha fatte di tutti i colori, dischi di Raina, alcuni dischi Raina stessi, insomma, Magista, non devo certo introdurlo. E anche con lui è, c'è, ci sono gli strumenti, qui ci sono gli strumenti, perché questo è tutto suonato e quindi si sente il tocco di una tromba soft suonata da lui, che è un jazzista organico, che è un jazzista che è un assolutamente straordinario, un professore di jazz. Lui ha scritto un metodo di composizione, esiste un lavoro di... Ripeti il nome, come si chiama? Marco Evangelista, ha detto Magista. Grandissimo, grande, grandissimo produttore e musicista. E pianoforte e altri strumenti. Ci metteremo a parlare dopo dei video, certo. Perché è lavoro recente, e delle date, perché sì. C'è il lavoro, no, da fare in futuro, penso. E se qualcosa succede, sì, adesso. Anzi, no, quest'anno devo dire che non è che è andata. Poteva andare molto peggio, eh. Alla fine qualcosa siamo riusciti. Credo a di sì, sono d'accordo. E con tutti i problemi e cose. Sì, ma sono d'accordo. Poteva andare peggio, certo, sì. Certo. Okay. Ninja. Sì. Ne parliamo dopo. Quindi, qual era la seconda selezione, diciamo? Allora, l'ha presentata nella carrellata. Infatti, questa qui si chiama Food Feed Me Brain, sì, c'è un featuring con una voce dalle Marche, Mannaroman, Double Spliff Produzione. Ce l'andiamo ad ascoltare subito. E che si fa? Allora. E che si fa? My life ranking, then God on this session of Iran, but I tell you, man, I'm a man, I want to deal with that non-stop. Bound the sense in me, I put it in a child, but the reason me no care about that. I hear them say, how you hear them say, brethren, yo? I hear them say, mo, when I go deal, no cocaine is our business. I hear them say, well, give me the food for me brain, brethren, 'cause me can't wait no more, you know. Food for me brain, I want it straight away. The only thing that feed me and protect me properly. Food for me brain, I need it straight away. Give thanks, Mama Earth, providing energy. When I get insane, dropping down the lane. Well, I meditation, I go beach and every day. Well, I'm eating like a snake, sipping like champagne. Like 10,000 miles away. Starting the morning, breakfast slowly, giving me the power to approach a new day. Some of them are cookie, some of them are burning. Grow up and get higher, even intellectually. Continuing the evening, blazing early. Do it all. all alone with a couple of friends. Something a changing, locks are curly, wicked and wild. Give me the blunt and the eye chain. I said, say, yeah, yeah. So give me the thing called blunt and eye chain. I hear them say, it's way anyway. I hear them say, yeah, yeah. Man like ranking Belga, don't the one man have a man. I hear them say, whoa, whoa. Straight across the borders are really big, y'all. And never waste time to reply to offender. Focus on the best, is the stress and defend that. When you double check them, I click like a panda. Come and do together a proper propaganda. Smoothly alongside just a soda. Sweet aroma, good karma, no coma. Sink your body, feed it proper rock and soda. A natural mystic. Tell me, Virgin. Give me the calling, give me the good, but I miss the bundy and yes, green. Give me the sensei, give me the way the light of the child will make it blaze. Give me the herbs, give me the cheese, whatever you call it, bring it here. We blaze it in the morning and I stop and deal with it. Give me the food, feel me, breathe. Give me the kush, no bush, me tell you, not let you insist. Give me the food, feed me, Brianna. Give me the highest cali, we not deal, not cock, yeah, nah. Better blow your nose than I blow up your Brianna. We sick, we mad, but we not drink champagne, nah. Not gonna smoke no crack, just a blaze the highest, we nah. We both your little praise and to judge the Almighty, so me say, give me the marijuana. And I burn the highest grace and put it in a child. Give me the marijuana. Man, I'm a ranking God on this session. I'm a ranking. Rain, I want it straight away. The only thing that feed me and protect me properly. Feed me brain, I need it straight away. Torniamo sui microfoni di Radio Onda Rosso sull'87.9 quando sono le 17:27 minuti primi di questa domenica 7 novembre con il nostro ospite Ranking Delgado, Diego con pure FM Rutical Auta in Cantina e giustamente sarà lui che lo accompagnerà in chitarra. Yes. Dicevo, Diego, parliamo un po' di video perché lavoro recentissimo e penso che sarà stato tanto lavoro perché non è mica facile fare un video, no? Sì. Quando uno c'ha un'idea, penso, lo vuole fare per bene, vuole trasmettere qualcosa. Sì, guarda, io c'ho questa passione nei confronti dei video per derivazioni, per anche forse un po' di deformazione professionale, perché l'altra parte della mia parte della vita è video, oltre che questa che è audio. E quindi ho cercato di portare un po' dentro quella cosa lì. E diciamo che nei video ho... A partire dal lockdown stesso è stato il primo lavoro, è stato con Soup in a Pot, che è l'ultimo singolo del 2020 prima che uscisse il disco, prodotto da Michael Exodus per Dobomatic Records. Ho sostanzialmente fatto questo video in cui una mattina mi sono svegliato e pensavo di essere in carcere, perché ero chiuso in casa e purtroppo ho fatto questo incubo, non è con questa sensazione, ma allora ho scritto un messaggio a un mio caro amico con cui condividevamo le vibe del momento, perché anche lui la viveva nello stesso modo. Mi ha rimandato indietro una foto di Al Capone. Avete presente quella di Al Capone, quella segnaletica dove c'è il frontale, la foto di fronte e quella di profilo, cioè il classico, sì, sì. Il classicone foto segnaletica, ecco quella là di Al Capone, me l'ha mandata. Allora io l'ho presa come reference e ho detto, ma fai una cosa, aspetta un attimo, adesso faccio un bel playback, mi metto qui da solo, tutto, faccio un bel playback, prendo due look diversi, faccio uno serio e uno incazzato e mi faccio il playback, e così ho fatto ed è venuto fuori, mischiato poi con immagini di repertorio che abbiamo collaborato con Prelinger Archive, che ci ha dato una grande mano, anzi, e poi ci ha pure ricitato, era molto contento che abbiamo utilizzato le loro immagini, un lavoro sul Covid, su questo, cioè un videoclip proprio su tutta questa esperienza di dover stare in casa, di vedere le cose da fuori, lavarsi le mani, portare fuori il cane, sì. Insomma, tutte queste immagini si rivedono in quel video lì, che è un po' un timbro, una marca di quello che è stato quel periodo per me, e in particolare cioè non insomma non so, è stata la mia escape strategy personale, in cui era il mio modo di reagire a questa condizione di isolamento forzato in cui siamo stati tutti quanti, ognuno ha reagito nel suo modo. Per me è stata la musica, e Supina Pot è stato il primo esempio. Da lì è partito tutto un giro da quando poi ho fatto il video, l'album, di inserire anche degli altri video che accompagnassero i brani dell'album. Allora ho fatto quello di il primo singolo, che è stato Fury Fimi Brain, che è quello che abbiamo appena ascoltato, con Manna Romana e Double Spliff, che sostanzialmente è un viaggio, diciamo, estetico, è un viaggio sulle montagne russe. Il videoclip si trova sul canale di Ranking Delgado di YouTube, al quale, se volete iscrivervi, fa solo che piacere, perché non tanto noi è su quello che vediamo i feedback del gradimento, quindi se c'è fa solo grande piacere, iscrivetevi. E se, ovviamente, se gradite i prodotti. E a quel punto niente, è tutto un excursus di un immaginario di un viaggione, ecco, sulle montagne russe, legato all'energia che questo brano detiene e rilascia ai propri utenti. Sì, ci sta anche come metafora di quel periodo. Assolutamente. No, montagne russe piene, sì, ma proprio anche in quel senso. Sì, insomma, o trovarci, ognuno poi ci trova, come in tutte queste opere creative, uno dà uno spunto di immaginario, che è il proprio, il mio personale, degli artisti che lo compongono, ma sono opere che poi aprono l'immaginazione e vediamo cosa ci ritornano. Esatto, che cosa ci ritrovano dentro, ed è anche aperto, sì, a tutti, mi fa piacere che dici. E l'ultimo? E l'ultimo è d'agosto, mi dicevi. Esatto, appena uscito, ed è quello con Silo, ed è un lyrics video che ci siamo fatti sulla base quello l'ho girato proprio durante il viaggio in moto, quando ero in Basilicata, sempre nel viaggio dell'anno scorso, quello dell'album. E lì mi trovavo a Marsico Nuovo, in questo luogo che non è un non luogo, ci siamo trovati che c'era questa panchina che era là da sola, una panchina da sola in un contesto totalmente desolato, autonomo, ma perfetto, paradisiaco. Ho detto, ma aspetta un attimo, abbiamo un drone, siamo qui per fai una cosa, facciamo questo take, inventiamoci questa la regia di questa cosa, e facciamo un volo pindarico partendo dall'universo cielo e arrivando sulla Terra, in particolare a questo specifico punto qui, che è il punto dove like that, cioè in maniera più semplice del mondo, io molto semplicemente, davvero, like that, perform questo brano. E infatti non c'è tanta componente estetica di elaborazione da videoclip, se non quanto una idea creativa, secondo me, forte e carina nella realizzazione, e ad aiutare poi come concept principale ad accompagnare con le liriche, cioè le parole del brano. Prima di chiudere, parlando delle date, del lavoro che speriamo, no, avremo in futuro, no, ti volevo chiedere del vinile, perché quasi che mi sfugge. Ah, certo, no? Sì, ed è una cosa figa, sì, perché sì. Non è, cioè, questa volta bel vinile abbiamo voluto fare. Abbiamo voluto suggellare questo lavoro composito, dove c'era la testa e le mani di diverse partecipazioni rilevanti nel panorama dub reggae italiano, che assolutamente valeva la pena farlo finire su formato, su Bene. Supporto, e quindi sta per diventare un vinile. In particolare diventerà un doppio LP, sì, con tutti Appunto. Quanti presenti, e sarà la celebrazione di tutti i producer è il primo disco, è il primo vero album di Ranking Delgado, sì. Boh, alla grande. Original Ranking Delgado. E ora sì, come viene il panorama per le date, che dicevamo un po', no? Quest'anno già poteva andare peggio, quindi alla fine può essere, speriamo, un punto di slancio, che ne Guarda, so. Io devo riconoscere, a parte, senza entrare in spinose argomentazioni legate poi al tema del Covid, da chi è d'accordo e chi non è d'accordo a fare serate e fare musica in questo periodo, per la questione Green Pass o contro Green Pass, o Vax o no Vax. Io, senza entrare nello specifico, avevo la necessità, cioè, ho dovuto, per queste lavorative, purtroppo sottostare a tutta questa cosa, io l'ho fatto il vaccino, lo dico apertamente, lo dico pubblicamente, e ho dovuto necessariamente stare, perché sennò non avrei potuto lavorare, ero un po' tagliato fuori, e quindi ho dovuto farla questa cosa, e poi però anche andare cioè la parte di sentirmi più tranquillo di quando siamo poi andati a fare le feste, soprattutto quelle che le abbiamo fatte all'aperto e abbiamo cercato di rispettare noi stessi per primi e soprattutto il prossimo. Parlo con attenzione perché so che è davvero un argomento molto molto delicato e non vorrei pestare la sensibilità di qualcuno, ma sono anche sicuro e fermo in quello che è la mia posizione su questo, me la spendo con forza. Certo. No, penso che le feste si debbano fare però nel contesto giusto, cioè perché la gente non la puoi tenere in casa, ne ha avuto abbastanza di stare chiusi, la necessità di sfogare e di andare a fare la musica e di tirare fuori, certo, le vibe, è arrivato un momento che era veramente necessario, quindi abbiamo trovato le condizioni per poterlo fare e ci sono state le opportunità e credo che abbiano anche avuto successo, cioè sono stato invitato a un festival internazionale, sono andato in Grecia quest'estate a Paxos, al Paxos Reggae Festival, insomma sono capitato, non si sono fatti altri festival italiani, non sono successi, sono successe in versione ridotta e magari in singole notti invece che in giornate prolungate. E quindi insomma tutto il ridimensionamento io lo capisco e lo trovo corretto, però alla fine non suonare del tutto perché andava così e crearsi un'ulteriore forzatura sotto quella fronte lì, io non ho voluto, non ho vissuto questa vibe e non è stato più forte di me, cioè avevo bisogno di tornare ad andare in mezzo alla gente e lo abbiamo fatto con il più possibile nella coscienza di causa e rispetto nei tempi e delle persone, e però abbiamo parlato, no, tante volte, Paolo, qua il fatto di essere consapevoli che ci vuole essere più intelligente forse di prima, prendere cura di noi, del prossimo, come diceva Diego, si tratta di quello, accettare un po' le regole del certo gioco, abbiamo vedere raccontato. Quale si possiamo veramente forzare. Abbiamo raccontato anche testimonianze questo, di alcuni festival o comunque weekend di Sound System, certo, dove la Massive si è autogestita in qualche modo sotto questo punto di vista, ovviamente come giustamente te Diego per lo più luoghi aperti visto comunque il periodo, però diciamo effettivamente qualcosa si è mosso, qualcosa è successo, cerchiamo di fare, no? E questo è importante che avvenga, perché comunque come diceva pure Diego, cioè, sta chiuso in casa. No, ma chiunque l'ha fatta ha visto la reazione delle persone, cioè ce n'è bisogno, è stato fisiologicamente necessario, sì, tornare, certo che ci dovrebbe far capire quanto importante l'arte e la cultura, no? Come una cosa che sta lì ad adornare, non so che. Diego, andiamo ad ascoltare l'ultima ciunco, se ci sistemiamo per il mini set live che ci regalerete. E quale sarebbe quindi la terza che hai scelto del disco per presentare prima di suonare? Suoniamo Sirens, che è il brano prodotto da Legato Rob, che anche questo è sempre per il tema dei brani scritti in quarantena. Io sentivo mi palleggiavo nella mia permanenza solitaria tra il silence, cioè il silenzio, e il sirens, cioè le sirene. Another day, yeah, you know me, sure it's gonna be a good day, yeah. times in a year. Younger to the elder, them aware. But tomorrow is another day. Better you stay safe and don't go there. Militant Falcon per diffondere Roots Dub e controinformazione. Sulla 87.9 di Radio Onda Rossa, dal vivo, su Militant Viria, Ranking Delgado, con FM Rutical, Autaina Cantina, dal vivo, per voi, sulla 87.9. So critical, critical. So me go mystical, mystical. Cause she's a militant soldier. She feel it rutical and vertical. Why them so critical, me general? Cause she's a mystical and inner call. Cause she's a militant soldier. She feel it rutical and vertical. I know we can lock it, empress. And sure we can talk together too, yeah. And never let it fall down, no stress. Never play the game or risk a chop my heart in two. You know say me brain are collapsing. Wake up in the morning and then thinking of you. So we better speak clean. Every time I try she say come another day, hey, hey, yeah. You know you love it like that. You know we love it like that, yeah. You know me love it like that, yeah. You love it like that. You know me love it like that, yeah. You know we love it like that, yo. You know me love it like that, yeah. She said come another day. Me say fire every morning. Punching at the chest, see the paper faster burning. See woolly by them, I feel the blaze and fight stronger. Still me want my love, I go struggle no longer. She say stay with me today, me ready from the dawning. Know me want to rest, I confess, we'll deserve it. Harder, no bother, ever and ever. Hero play more than no bother, call my father. Yeah. You know you love it like that. Yo, you know we love it like that. Yeah, you know we love it like that. Yeah, you love it like that. Hey, you know you love it like that. You know me love it like that, yo. You know me love it like that. Yeah. She say come another day, me say fire every morning. Punching at the chest, see the paper faster burning. See who leave a dem a feel the blaze and fight stronger. Still me want my love, I go struggle no longer. She say stay with me today, me ready from the morning. No me want to rest, I confess we deserve it. I done no bother, ever and never. Aeroplane more than nobody call my father. Yeah, you love it like that, yeah. You know me love it like that, yeah. You know me love it like that, yeah. You love it like that, You know me love it like that, yeah. You love it like that, yeah. You know me love it like that, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yes, I. And this one is was a love. It was a like that, you know. Production of Onga, alongside the Silo, and here performed alongside the FM Rutical, Ota in a cantina, you know, pong guitar. Andiamo avanti. Yeah. Let's go forward. We gotta go. Yeah. With the singing bells. Yeah, colder. When I tell you, colder than Alaska. Hey, one more tell them say, yeah. Hey, colder than Alaska, frozen in the ice, hotter than sandy Miami Vice. If you like the vibe, just pull up the voice. Pizza mandolino, please give me a slice. Bubble up your body, we deep on the ride. Listen, this your music from the other side. Yes, sometimes I wish it could fly away. And all of it being just die away. Hey, zandili dan dan, zandili dan dan. One tell them say up like seven. We both sit up like in heaven. Hey, level 11. I like it 24/7. Yeah, up like seven. We rock it up like in heaven. Level 11. I like it 24/7. When you're not around, I'm gonna close my eyes. Oh, so nice, now I fantasize. Yes, so sweet, yes, she's my melody. One of a kind of my summer beat. I tweet, Lord, I'm sure you never leave me alone. Feeling like a king of your empty throne. Asumia say, telling to my people, so me say, Asumia who? Telling to my people, so me, Asumia say. Telling to my people, Somia, Asomia, who? Yeah. Up like seven, we both sit up like in heaven. Level 11, I like it 24/7. Yeah. Up like seven, we rock it up like in heaven. Level 11, I like it 24/7. Colder than Alaska, frozen in the ice. Hotter than sandy Miami Vice. If you like the vibe, just pull up the voice. Pizza mandolino, please give me a slice. Bubble up your body, we dip on the ride. Listen this your music from the other side. Yes, sometimes I wish it could have fly away. And all of it being just die away. Dandili di dan dan dili di dan dan dili di dan dan dili di dan dan din din dan dan dan dan dan. Yeah, up like seven, we both sit up like in heaven. Yes. Yeah, man. I go forward. Yeah, man. Step it to dip it into. Step it dip it to dip it into. Hey, dip it dip dip it into. Stab a dum dum stab. You know me know them know. You see them skanky on the beat. You know me know, Jano. Them a go bouncing with no trick. Beat up, hit a hot like a soup in a pot. Did ya play a top ranking shot? From the bottom of the buckle to the top. Sip a cup, top a top. It a cymbal and a speak on pop. See my sound, it a play non-stop. And this ya lady's gonna whine on the clock. Tick-a-tacka, wanna tell them. You know me know, them know. See them skanking on the beat. You know me know, Jano. Them a go bouncing with no trick. You na caught it. Dance on the beat, one drop. Mama tell him, can be sure it a go bust and rock. You na stop because you need a road blocker. Na low copper, top a top. This ya bass a lot, the massive them a shock. Everybody used to be a stem cut. And the troubles and the problems I'm a shopper. Lock a copper, eh. You know me know, them know. You see them skanking on the beat. Wanna tell them, you know me know, Jano. Them I go bouncing with no trick. Hey, hey, you know me know, them know. You see them rocking with no tipper. Wanna tell them, say, you know me know, Jano. Them I go bouncing on the beat. To the top. Eat a hot like a soup in a pot. Did you play a top ranking shot? From the bottom of the buckle to the top. Sip a cup, top a top. This ya bass a lady massive, them a shock. This ya gal is gonna whine on the clock. Hey, hey, mama tell and say, yeah. You know me know, them know. You see them skanking on the beat. Hey, hey, you know me know, Jano. Them a go bouncing with no trick. Yeah, last one. You know me know, them know. You see them skanking on the beat. Hey, you know me know, Jano. Them a go bouncing with no trick. Yes, I. More fire. Fire burning. Ranking Delgado, yeah, featuring FM Rutical out in a cantina sull'87.9 di Radio Onda Rossa, direttamente da Roma per il mondo intero attraverso il www.ondarossa.info. Certo che ne facciamo un'altra. Allora ne facciamo un'altra. Avanti tutta. Yeah, yeah. I tell you that I'm upset when you're a least what you tell you, you should regret. Butterflies in my belly, belly, and I forget 100 times I told you personally. But you don't care. Time is getting harder, down in a yard. Girl, you make me feeling as I am the bad card. You really want me in a rubber-dubber. Feeling in the middle of the sweet and the sour. Come on and dance and move your feet. Just enjoy the party and feel the beat. You never get insane in the brain and never go crazy. Music is the healing of the nation, ain't it? I tell you, did I'm upset when you're released. What you tell you, you should regret. Butterflies in my belly, belly, and I forget 100 times I told you personally, but you don't care. Yeah, mama tell them say, hey, hey, hey. I like the way you moving, moving. You're all around me. You make me feel the groovy, groovy. It's overwhelming. Having a chat, maybe with a shot, maybe with the feeling you just got the right plot. I tell you that I'm upset when you're always watching telly, telly. You should regret butterflies in my belly, belly. And I forget 100 times I told you personally, but you don't care. I tell you that I'm upset when you're released. What you tell it, you should regret butterflies in my belly, belly. And I forget 100 times I told you personally, but you don't care. Huh? But you don't care. But you don't care. Everybody say it. But you don't care. Yeah. But you don't care. But you don't care. I like the way you're moving, moving. You're all around me. You make me feel the groovy, groovy. It's overwhelming. Hey, hey. Having a chat, maybe with a shot, maybe with the feeling you just got the right blood. Tell you that I'm upset when you're released. What you tell you, you should regret butterflies in my belly, belly. And I forget 100 times I told you personally, but you don't care. Yeah, man. Dai, è forte. Grazie mille. Ranking, ne abbiamo un'altra. Ne abbiamo un'altra? Non so, io chiedo, ma. Che dici? Allora, che diciamo? Dice la tua, Faia. Mentre loro si mettono d'accordo, vedi, noi possiamo un attimo commentare. Sono andato di là, senti come si sentiva in radio. Guarda, devo dire la verità, bel livello, bella musica. Ringraziamo quindi di nuovo FM, Rudigal e Ranking Delgado per essere qui su Militant Hub Area con noi. E ce n'hanno ancora a quanto pare, eh? Li vedo già pronti e possiamo andare alla prossima. Che dici? Sto pensando, guarda. Ma sì, facciamone due. Ma dai. Sì, dai, li abbiamo ospiti in studio. Per caso non abbiamo i nostri compagni di... No, oggi appunto, io te l'avevo detto, non andrà in onda, no, non ci sono qua i compagni, quindi ci possiamo forse prendere un pochino di più, no? Dopo le 18 e dai, non togliamo tempo. Per sentircene un altro paio, solo sì. Questo. No? Dai, allora le ultime due di Ranking Delgado insieme a FM Rutical. Out in a cantina sulla 87.9, ovviamente Militant Hub Area. One might tell them say roots, yeah, in your life. What you deserve is what you get to write. Wise in your life. Nowadays it's so difficult to get a good vibe. In this year days in a dirty Babylon, we realize it and not a one nation. Keeping the fire of the population. We feeling irate, but we are cry. Some are people smiling, some of them are die. It's an endless fighting, you can't deny. Some people killing, but them still free. Zion, over the rainbow roots. Yeah, in your life, yeah. What you deserve is what you get to write. Wise, yeah, in your life. And nowadays it's so difficult to get a good vibe. Roots, yeah, in your life. What you deserve is what you get to write. Wise in your life. Nowadays it's so difficult to get a good vibe. It's from the morning that I put my feet on the street, feeling the ground deep and deep, so sweet. moving so forward, thanks and praises. The Almighty above all set the captives free. I want to live on a tree. I want to live on a tree. I want to live on a tree. When I tell them, say roots in your life. Yeah, what you deserve is what you get right wise in your life. Nowadays it's so difficult to get a good vibe. Roots in your life. Yeah, what you deserve is what you get right wise in your life. Nowadays it's so difficult to get a good vibe. In these your days in a dirty Babylon, we realize it are not a one nation. Keeping the fire off the population, we feeling irate, but we are cry. Some people smiling and some of them are die. It's an endless fighting, you can't deny. Some people killing, but them still free. Zion over the rainbow. Yeah, man. Forward. So big up yourself. Big up uno self. Radio Onda Rossa. Yaman Ranking Delgado says so alongside FM Brutica Lota in a cantina right now with Deja live and direct. So I'm gonna go forward and get into last tune, eh? Facciamo ancora una canzone, l'ultima. È tratta dall'ultimo disco, dal nuovo album che si chiama Up Like Seven. L'album e la canzone questa è One Off. Yeah? Freddy Stock Production. Gonna miss me. Who's gonna miss me? Do you really gonna miss me? I mean for real. Are you gonna miss me till the end? We not rush. You're my one off. Baby, my half. My one off. Aujourd'hui life's so tough, but you're my one off. So I'm on. You're my tribe, wicked and wild. Me and you, we rebel inside. No walls and no sides, just a vibe. When we ride, bloodstream DNA. Tell me who's gonna miss me, yeah. Who's gonna miss me? Do you really gonna miss me? I mean for real. How you gonna miss me till the end? Tell me who's gonna miss me? Yeah. Who's gonna miss me? Do you really gonna miss me? I mean for real. How you gonna miss me till the end? Hey. Remember say me tell you what, sometime we keep it softer. Remember say me tell you what, sometime we push it harder. Remember say me tell you, yeah, when they are with the rocker. Remember say me tell you, yeah, we there, yeah, we there. Dem a go teach the youth how to start when you sound boy. Dem a go teach the youth how to build up a speaker. Dem a go teach the youth how to scan cross the border. Dem a go teach the youth how to dance in Jah guidance. Who's gonna miss me? Hey. Who's gonna miss me? Do you really gonna miss me? I mean for real. Are you gonna miss me till the end? Hey. Who's gonna miss me? Mm. Yeah. Who's gonna miss we? Hey. Do you really gonna miss me? I mean for real. Are you gonna miss me? miss me till the end, ey. Yeah, man. Applausi, certo, certo di sì, per il nostro ospite, il primo così dal vivo che ci ha regalato un set live ranking del Gado FM Rutical Auta in Cantina. Grazie ragazzi, veramente per questo bellissimo momento che ci avete regalato, è stato un piacere. Grazie a voi davvero, a tutti gli ascoltatori. Veramente. È stato un grande piacere, così improvvisato come bello, cosa, ma ce l'avevamo da dire, la volevamo fare. Promotion.